La puntata di oggi di Festivals Backpack iniziamo finalmente a parlare di festival estivi, che sono in effetti il cuore del nostro programma e che stanno per iniziare, perché tra pochissime settimane alcune delle rassegne più interessanti iniziano a prendere vita, tra cui una che abbiamo tutti gli anni citato in un modo o nell'altro tramite interviste e tramite articoli, e sto parlando di Ferrara sotto le stelle. Siamo al telefono con il direttore artistico Corrado Nuccini per farci raccontare proprio un pochino meglio questa rassegna. Intanto benvenuto Corrado a Radio Città Fujiko. Ciao, grazie, ciao a tutti, bentrovati. Come stai? Bene, bene, bene, siamo addirittura d'arrivo per la 28esima edizione di Ferrara sotto le stelle. 28 edizioni sono tante, quindi vogliamo prepararci al meglio. Infatti siamo addirittura d'arrivo, si diceva, perché questa edizione, la 28esima edizione, quindi insomma ricordiamo che ha una storia molto lunga questa rassegna, prima tranche in un qualche modo inizia tra pochissimo. Ti chiederei se hai voglia appunto di ricordarci un po' quali sono le date e anche come mai avete diviso la manifestazione in tre fasi in un qualche modo. Innanzitutto io partirei con questo dato, il primo, che abbiamo diffuso la 28esima edizione. Non è affatto scontato che i festival di musica che trattano la musica, soprattutto quella contemporanea, il pop, il rock e quant'altro, riescano nella loro mission a durare così tanto, perché come ben sai i festival sono soggetti a tante trasformazioni, tanti cambiamenti. Alcuni sono legati alla storia stessa del festival, ma tanti altri sono indotti da cambiamenti che ci sono nelle città, quindi il cambio di governance, il cambio di indirizzo, il cambio di location, di struttura. Insomma, possono essere tante le trasformazioni che nel tempo un festival deve affrontare. Quindi la 28esima edizione è un traguardo importante, noi puntiamo almeno ad arrivare a 30 per poter festeggiare questo traguardo e poi andare avanti anche nel tempo. Quest'anno siamo divisi in tre parti. Iniziamo con un anticipo tardo primaverile, quindi dal 3 all'8 di giugno al cortile del Castello Estense, che è una delle location storiche del festival nostro, che solitamente abbinava Piazza Castello al cortile del Castello, quindi pieno cuore di Ferrara, centro storico, zona UNESCO, e dal 3 all'8 giugno si alterneranno 5 concerti. Partiamo il 3 di giugno con Blond Bredette, che tornano con un album dopo 9 anni. Il loro album si chiama Sit Down for Dinner, immagino che lo conoscete, che l'abbiate anche programmato diverse volte. Poi proseguiamo il 4 di giugno con una band londinese, si chiamano Dry Cleaning, anche loro hanno pubblicato un album nel 23 che si chiama Stampwork per 4AD. Sono una band assolutamente da non perdere, particolare, con questo cantato recitato della cantante che si chiama Lorenzo. Poi proseguiremo il 5 con un'artista italiana, sempre femminile, addirittura una combo, perché in apertura ci sarà la cantautrice Bert. Avremo Daniela Pes che ci presenta questo album che sembra uscito ormai da decenni, ma è uscito anche questo solo l'anno scorso, si chiama Spira. Ci sembra uscito da decenni perché in questi pochi mesi ha raggiunto un grosso successo in termini di critica, vincendo premi Tenco, ma anche di un pubblico sempre crescente, perché oltre ad aver fatto un album con la produzione di Io sono un cane, quindi ripercorrendo anche quei percorsi che Jacopo Incami già aveva tracciato con la sua carriera da solista, ma riuscendo anche a copiare questo sound innovativo con delle performance live di assoluta importanza. Proseguo un po' rapidamente, il 7 di giugno ci sarà l'anniversario di un disco iconico di un cantautore importante italiano che si chiama Dente, immagino che conoscete tutti. L'album in questione è L'amore non è bello, che uscì nel 2009, quindi la ricorrenza è il 15esimo anniversario, e lo presenterà in forma integrale il 7 di giugno al cortile. Chiudiamo con un'altra band che ci esalta molto. Loro sono The Murder Capital, capitanati dal cantante James McGovern, che ci presentano anche loro un album del 2023, Gigi's Recovery, e vanno nel filone delle, di band come Fontaine D.C., Idols, Shane e quant'altro. E, così si chiude la prima tranche. Se vuoi poi continuo, se no altrimenti ti ripasso la parola. Ok, no, intanto era già importante insomma fare un po' il recap anche dei nomi, perché proprio riguardo ai nomi che calcano il palco di Ferrara sotto le stelle, una cosa che seguendovi da anni insomma abbiamo notato è che puntate sempre intanto alla qualità ovviamente, ma anche esplorando generi musicali molto diversi tra loro, quindi cercando sempre di trovare il meglio ma un po' a 360 gradi in un qualche modo. Quindi volevo un po' chiederti, visto che sei il direttore artistico, questa scelta come avviene, cioè scegliere gli artisti che poi presentate nell'estate di Ferrara sotto le stelle, come viene guidata la scelta? Beh, come vedi questa line-up è varia, ma neanche troppo, nel senso che quantomeno gli artisti che abbiamo elencato qui ora fanno parte di diverse sfaccettature, ma direi di alcune coordinate comuni, che sono quelle sicuramente spesso della musica indipendente alternativa, della musica di ricerca, della musica che mescola suggestioni di contemporaneità. Credo che al contrario i festival di stampo generalista, quindi con un salto molto più di varietà, molto più forte, quindi per intenderci che si passa dai cantautori degli anni 70 ai comici, ai trapper di oggi, rischino nel tempo di non lasciare un'identità, quindi di non essere particolarmente riconosciuti. I festival che nel tempo rimangono nell'immaginario degli ascoltatori di musica sono quelli che riescono a mettere insieme una programmazione che, come posso dire, di anno in anno ti ricorda l'identità del festival. Perfetto, allora direi che, visto che è un po' che stiamo parlando, farei una pausa ascoltando un po' di musica, magari tra gli artisti che proprio hai citato e che saranno sul palco di Ferrara sotto le stelle, e poi torniamo a parlare di questa manifestazione. Ti chiederei se hai voglia di scegliere tu un cantante da farci ascoltare. Dopo l'introduzione che ho fatto a Daniela Pessi, io sentirei un suo pezzo, così potete verificare direttamente tutto quello che ho detto. Direi che la sera la spira di Daniela Pessi. Adesso lo ascoltiamo allora. Benissimo, parlavamo prima di questa canzone di identità del festival in un qualche modo, un lavoro che su Ferrara sotto le stelle decisamente si sente in maniera molto forte. L'identità di Ferrara sotto le stelle mi sembra, anche avendolo seguito da tanto tempo, anche fortemente legata alla città, proprio anche per il luogo forse dove si svolge la manifestazione, il cortile del castello, insomma un posto veramente molto... molto bello, molto interessante, insomma diciamo l'area intorno al castello molto caratteristica e molto legata proprio al centro di questa città, molto bella. Ti chiederei quindi se dovessimo descrivere l'identità di Ferrara sotto le stelle, come la descriveresti, e anche qual è il legame con la città, con Ferrara? Allora, è una domanda complessa. Diciamo, come risposta generale, credo che tutti i festival debbano avere un legame forte ed essere una sorta di dimensione ulteriore che si offre al rapporto cittadino con la propria città, si riesca a dare una tipologia di esperienza ulteriore. In primis io credo che il festival, i festival musicali debbano essere fatti per migliorare la qualità del territorio di chi ci vive. Onestamente io sono sempre stato molto contrario all'idea che i festival siano qualcosa che potenzia il turismo. Ora qui andremo in un campo assolutamente ampio e ci sarebbe una discussione lunga, però credo che le questioni turistiche siano altro. Gli eventi musicali, soprattutto quelli come il nostro, aprono un forte legame con il territorio, con la città, e che debbano soprattutto riuscire a potenziare le professionalità, le capacità delle persone che lavorano al festival tutto l'anno. Quindi questa è un po' la nostra visione, e credo nel tempo ci abbia permesso, uno, di arrivare a 28 edizioni, e due, di riuscire a sviluppare un percorso di identità coerente, che poi, come diciamo sempre, quando ci sono gli elementi di base, quando c'è una forte identità, c'è una location meravigliosa, c'è una possibilità di operare in un periodo come quello estivo, dove la gente ha voglia di uscire e vedere musica, con una battuta diciamo sempre che un artista vale l'altro, che non è vero, ma in parte è anche così, perché l'importante è tutto quello che sta dietro. Perfetto. A questo punto io ti farei un'altra domanda. Poco tempo fa, pochi giorni fa, è stata presentata una rete di festival molto interessante, che è Solido. Solido vi unisce ad altre due manifestazioni molto importanti, sempre emiliane, che sono Arti Vive, che si terrà invece a luglio, a giugno, a fine giugno, inizio luglio, e a Cielo Aperto, che è una rassegna romagnola che si svolge invece su un periodo un po' più lungo. Ti vorrei chiedere se puoi spiegarmi che cos'è Solido. Allora, Solido, come già dice il nome, nomen omen, è una rete di rafforzamento, delle capacità relazionali che il nostro festival, insieme agli altri due che hai citato e che ricitiamo, che sono Arti Vive Festival di Soliera Modena e A Cielo Aperto di Cesena, di rafforzare le proprie capacità di relazione in termini di scambio di skill, di informazioni, di competenze, di opportunità. Questo nasce da quel periodo che noi, bene o male, credo abbiamo un po' tutti rimosso, ma che credo debba essere parte della nostra coscienza. Sto parlando del biennio pandemico, dove tutto il nostro settore si è bloccato, per cui abbiamo anche capito che i festival non sono scontati. Ferrara sotto le stelle a 30 edizioni ci arriverà, perché è molto determinato, ma non è detto che poi prosegua per sempre, è così gli altri festival, è così tutti i festival e tutte le manifestazioni. Il biennio pandemico ci ha insegnato molte cose, e proprio da quell'esperienza abbiamo provato a sviluppare una rete che mettesse, che realizzasse tutto quello che all'epoca, nelle talk, negli scambi, negli incontri che si sono susseguiti in numerose ricorrenze, in questi incontri si davano tante prospettive per il futuro. Con Solido abbiamo provato a realizzarne alcune, quindi è una rete che da un lato fa circuitare artisti emiliano romagnoli, questo anche grazie alla collaborazione con Emilia Romagna Music Commission, ma produce anche tutta una serie di valore aggiunto in termini relazionali, come ti dicevo prima. Io ti chiederei, un po' per concludere diciamo questa nostra chiacchierata, delle coordinate pratiche per raggiungere Ferrara sotto le stelle, per l'acquisto dei biglietti, insomma per rimanere un po' aggiornati anche su come vivere effettivamente Ferrara sotto le stelle. Allora, certo, prima di dare le coordinate come arrivare a Ferrara, è giusto anche che diciamo brevissimamente, perché poi fare il presentatore non è tanto il mio ruolo, ma ci provo. Quest'anno avremo anche una nuova location, che è fuori Ferrara, sempre nella provincia ferrarese, si chiama Delizia di Benvignante, ed è una residenza estiva degli allora Duchi Estensi, quindi una zona, una location anche questa di assoluto prestigio. In questa nuova location, che è nel comune di Argenta, faremo due altri concerti: uno è Fantastic Negrito, cantautore bluesman rocker americano, e poi presenteremo questo concerto di anniversario di PFM, che ripresenta il repertorio di De André in occasione della ricorrenza della scomparsa del grande cantautore. Ultimissima, torniamo a Ferrara in ottobre. In ottobre chiudiamo la nostra rassegna inaugurando la rassegna, un'altra rassegna importante che è Internazionale Ferrara. Noi chiudiamo con un concerto straordinario, che è quello di Einstein and Neubauten, che tornano con il loro album Rampen Alien Pop Music il 3 ottobre a chiudere la nostra rassegna. Quindi ho fatto questa precisazione ulteriore per spiegarti, come dicevo all'inizio, che ci sarà Cortile del Castello, Delizia di Benvignante e Teatro Comunale. Quindi se queste sono le tre location, Teatro Comunale e Cortile del Castello sono assolutamente nel centro di Ferrara, quindi ci si può arrivare con tutte le modalità. Noi preferiamo quelle green, quindi spostamenti col treno o spostamenti interni alla città con la bicicletta o con gli strumenti meno impattanti a livello ecologico, ma ci si può arrivare in tutte le maniere. La Rocca di Benvignante, la Delizia di Benvignante, essendo una città, probabilmente l'automobile è lo strumento un po' più semplice per raggiungere la location. Per comprare i biglietti invece abbiamo attive due piattaforme principali. La nostra principale piattaforma è Dice, che quindi è una piattaforma che si trova e sta interamente all'interno dell'app, quindi devo scaricare l'app e comprare il proprio biglietto attraverso l'app, oppure Ticket One. Perfetto, direi che abbiamo tutte le informazioni necessarie. Hai citato anche insomma le due tranche successive che a inizio intervista abbiamo detto, insomma, che questa programmazione è divisa un po' in tre tranche, adesso le abbiamo ricordate tutte. Ovviamente le informazioni sono tante, quindi ricordiamo che sul nostro sito ci sarà un articolo che racchiude tutte le informazioni, ma il sito di Ferrara Sotto le Stelle ovviamente è chiarissimo, ci sono i social che possiamo seguire per essere aggiornati, quindi vi invitiamo ovviamente a usare questi strumenti per avere tutte le informazioni necessarie. Io ti ringrazio tantissimo, Corrado, per essere stato con noi, per averci raccontato la 28ª edizione di Ferrara Sotto le Stelle, che appunto è alle porte, e ti chiederei, se hai voglia, per salutarci, di scegliere un'altra canzone da farci ascoltare. È un po' più complesso, perché avendo svelato tutto il programma ci sarebbero tantissimi artisti, semplicemente anche solo per quelli che abbiamo citato, che meriterebbero chiudere questa bella conversazione, e vi ringrazio per il tempo che ci avete concesso. Andiamo per in ordine, quindi gli ultimi che abbiamo citato, Stitzenden e Bauten, quindi dal loro ultimo album, scegliere questo brano molto strano e divertente, che si chiama Pestalò. Allora lo ascoltiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a voi.